cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo in Francia su consumi, colori e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano di Memetti Club. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. Beh, ora prima di uscire di casa e di decidere cosa indossare, oltre a consultare le previsioni meteo, si possono consultare quelle dei colori. Questo da quando Pinky, un marchio francese di moda giovane, si è inventato un servizio lanciato poche settimane fa di previsione giornaliera del colore, che si chiama appunto Color Forecast. Tre webcam sono state piazzate in tre capitali europee della moda, Parigi, Milano e Anversa, e puntate sulle vie con maggior traffico di trendsetter, se si può dire così. Uno speciale software di tracciamento del colore sviluppato da Pedro Cruz, un giovane interaction designer portoghese, cattura le immagini e le traduce in un color stream, ossia una speciale infografica che mostra le prevalenze di colore. Quindi per sapere in tempo reale, nell'ultimo minuto, giorno o settimana, quali tonalità vanno per la maggiore a Parigi o a Milano, basta collegarsi all'apposito sito pimkycolorforecast.com, che diventerà presto anche un'app per smartphone. Qui vediamo ad esempio che a Anversa il giallo è il colore del momento e sempre sullo stesso sito si possono acquistare le proposte in tono del marchio. Una felice combinazione quindi di comunicazione non convenzionale e cool hunting, o per meglio dire color hunting.